io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se potessi fare l'avvocato, se tu avessi tempo faresti il bucato. La nostra nasce da un'idea masticata insieme a un pugno di amici economisti italiani che insegnano in cattedre prestigiose all'estero, Luigi Zingales che insegna a Chicago dove ho preso il master, Michele Boldrini che insegna alla Washington University in St. Louis. Caro Parenzo, tutto ruota intorno a questa piccola frase, a questa frase. Dove ho preso il master? Dove ho preso il master? Di chi stiamo parlando, cari ascoltatori della Zanzara? Stiamo parlando di David Parenzo, che non si sente bene come al solito. Come no? Sì, ma no, come? si sente. Stiamo parlando di Oscar Giannini. Esploso in silenzio, bravo, la tua introduzione. Esploso il caso Giannino. Un regalino. Attaroccato o no il titolo di studio? Abbiamo trovato diverse tracce, caro Parenzo, lo dico anche con rammarico, però abbiamo trovato diverse tracce in altri siti. In altri siti. Sì, sì. Beh, qui quello dell'Istituto Bruno Leoni, dove c'è scritto chiaramente quello che c'è scritto, ho conseguito una specializzazione là, quello che è al Chicago University. Un altro sito dove lui ha tenuto delle conferenze, altre cose ancora, altre cose che verranno fuori. L'accusa è pesante. Uno che dice ad un altro professore universitario queste parole qui. E allora io lo dico, che gente così per il merito l'aspetto nell'aula del Parlamento. Tutte le volte che quel magnifico rettore si alzerà e parlerà di merito, avrà una voce che dirà: taci miserabile! Noi non guardiamo in faccia a nessuno, caro Parenzo. È vero o no che quel sito era taroccato, che Oscar Giannino ha spacciato per master una cosa che non è stato un master, non è stato nulla, in realtà solo la frequentazione di un corso di lingua, come dice lui stesso, sì o no? Dalle prime vogliono fermare Giannino, vogliono fermare un complotto. Ma tu la butti in caciara. La cosa è molto seria. Dopodiché, bisogna dire subito una cosa. Giannino è laureato in giurisprudenza ed economia. Quindi è laureato. Ma adesso non c'è tempo per le cose. Ma perché devi subito approfondire? La cosa è molto seria. È molto seria. Ha taroccato o no? Ha spacciato? Ha diffuso urbi e torbi un titolo di studio che non possiede? Uno che mette il merito al primo punto del suo programma? Basta, stai zitto per adesso, fai silenzio. Almeno tre ore, se tu fossi stato con me. Beh, intanto la grande novità di Bersani in piazza Milano, la grandissima novità, lo sai qual è stata? C'è un po' di ironia in questa sua introduzione. La grande novità politica di Bersani in piazza Milano, l'enorme novità. Beh, intanto Romano Prodi, questa è la novità. Appunto, la grande novità, amico mio. Lo stesso Fiorello lo uccide. Senti Fiorello nell'edicola. Andiamo su Repubblica. Andiamo a Repubblica che dice: Bersani, la svolta parte da Milano. Qual è sta svolta? ditemi la svolta, la... non mi dite che questa è la svolta. La svolta, signore. No, erano anni che non si vedeva in pubblico. Pensate che appena arrivato lì a Milano, pure la Madonnina ha tirato fuori l'iPhone e ha fatto la foto, perché dice, questo o è quello degli sgommati Prodi, o è... no, è quello vero, ragazzi, è quello vero. Ma dai, su, anche i titoli di oggi dei giornali, la grande novità con Romano Prodi che parla di Africa, poi fa una battuta sul giaguaro che non fa ridere nessuno. Senti qua che cosa dice di Prodi: miei amici africani. Dai, su, Bersani, si può fare di meglio. Non sempre tutti lo capiscono. I miei amici africani mi chiedono perché Bersani ce l'abbia tanto con la sbacchiatura dei giaguari. Mi è difficile rispondere. Di solito me la cavo dicendo che Bersani ce l'ha anche coi tacchini. Il mio sogno, e ve lo confesso sinceramente, sarebbe di vedere Bersani a porta con un giaguaro in braccio e vedere accarezzarlo così. Abbiamo già un grande ospite collegato che ci dirà la sua sulla caso Giannino, uno dei tre dell'Ave Maria, così è stato ribattezzata la triade: Giannino, Zingales, che ha fatto scoppiare il caso, e il terzo fra poco ve lo presento. Fermo lì, c'è qualcos'altro da dire. Secondo Berlusconi Grillo è cattivissimo in faccia, per questo non va in televisione. Senti, è esploso anche il caso della televisione, è esploso, che parole brutte che uso oggi, è esploso il caso, cose da giornalisti. Senti, è un professionista come attore e quindi il suo pubblico è quello delle piazze. Aggiungo che, come è arrivato adesso ad avere la faccia, se va in televisione, la televisione, ritraendolo da vicino, scoprirebbe la sua intima natura di cattivissimo. Cioè, dice che siccome ha la faccia talmente brutta che le telecamere se lo inquadrassero da vicino, bah! È uno spettacolo quell'uomo ormai, è uno spettacolo. Beh, cosa vuoi ascoltare del weekend, dello show di Berlusconi del weekend? Giannino Clown ormai è quasi superato, poi con tutti gli spin doctor che hanno, con tutti i soldi che può spendere Berlusconi, trovatelo qualcuno che fa le pulce a Giannino. È una settimana che parla di clown, eccetera. Avesse trovato una cosa seria, l'ha dovuta tirare fuori Zingales. Bah, Berlusconi e il ponte, senti, ci voglio passare sopra prima che crepo. I pompieri però bisognava pensarci ieri. Ho sempre avuto nel cuore di poter, prima di morire, passare sul ponte. Il ponte! E infine Giuliano Ferrara, uno spettacolo alla 7 l'altro giorno, che dice, nonostante tutto, il fatto che sia un guitto, che ha sbagliato tutto, continua a votare Berlusconi, un genio. E poi racconta pure una barzelletta. Il mio voto per Berlusconi è assicurato. No, no, ma Monti, pensaci bene. Come... Non solo, ma sul foglio di domani troverai una cosa che dice: ammazza quanto è spiritoso Berlusconi. No, ma era quella su Tremonti, è un modo per insultarlo. Ma quella su Tremonti voi la conoscete o no? Quale? No. Ecco, è la più bella di tutte. Quella di Agorà l'ha detta, una cosa super. Ha detto, dice, io farò il ministro dell'economia. Allora quelli gli hanno detto, dice, ma no, quello lo fa Tremonti. Dice, no, Tremonti non può. Ma come non può? L'ha fatto con lei 10 anni. Non può. Ha un cugino farmacista. Gli diamo il ministero della salute, così mette delle supposte a tutti gli italiani. Ma è un genio! 800 24 00 24, è con noi Michele Boldrin, buonasera, in diretta addirittura da Calcutta. Cosa ci fa a Calcutta, professor Boldrin? Faccio il mio lavoro, parlo con gli indiani, cioè, professore, gli indiani, sa, professore, indiani. Professore, sa, Padova, peraltro, come me, professor, no, Boldrin. Ormai dire professore uno non è più sicuro di nulla dopo questa roba qua. Allora mi dica subito la sua, professor Boldrin. Mi chiama Michele, così siamo a posto. No, certo, era una leggera ironia sbagliata magari sulla vicenda Giannino. Chi ha ragione, Zingales o Giannino? Non vengono mai leggere. No, la mia era ironia, professor Boldrin. Chi ha ragione, Zingales o Giannino? Non è che devono aver ragione o torto uno dei due, no? Ma come no? Non faccio il democristiano adesso, professor Boldrin, su. Uno democristiano. Uno dice che è falsario, Zingales dice che Giannino è un falsario. Giannino si difende, ma in realtà non si difende. Guarda, non mi è venuto un dubbio. Cioè, su chi? Sui due. Cioè? Che si siano messi d'accordo. No, professor Boldrin, non è possibile. Lei dice... Beh, ragazzi, cioè, vi rendete conto? Io ho lei è uno dei fondatori di Fermare il Declino. Oggi alla conferenza non ho avuto contatto col mondo. adesso alle 9 di sera ora locale ho praticamente riacceso i telefoni, aperto i computer e esploso. Siamo finalmente sulla prima pagina del Corriere della Sera, ho appena litigato con la vostra giornalista verso le 24 ore, mi hanno chiamato a decine incluso voi. Finalmente tutti parlano di noi. Vabbè, non è vero, no? Non delle nostre proposte, no, ma della baruffa. Non quindi è vero, poi sono d'accordo Luigi e Oscar, adesso appena li trovo ci faccio due chiacchiere, vedrà che è tutto un giochetto. No, vabbè, non è così. Questa è la battuta sua, d'accordo, ci può stare, però scusi un attimo professor Bodina, a parte che non è vero che non si parla di Giannino, è ovunque, ogni giorno, dappertutto. La prima pagina del Corriere io non l'ho mai vista. Ma no, ogni giorno il Corriere in particolare dà spazio a Giannino. Adesso questo qua francamente mi sembra un'accusa non veritiera. Lei è in India, non è che... mettiamo una cenetta che ho ragione io. Vabbè, poi vediamo. Però scusi un attimo, professor Bodrin, al di là del fatto che si sono messi d'accordo, è evidente che non si sono messi d'accordo. Fosse vero, come peraltro risulta anche dalla voce, l'ha sentita la voce di Giannino che dice ho conseguito un master a Chicago, no? Fosse vero, lei che è quello che attacca i raccontaballe, il merito, starebbe ancora con Giannino? Starei ancora con Giannino. Cioè rimarrebbe con Giannino? Dovrei dare una spiegazione, perché sì, quella lì l'ho sentita anch'io quella frase, è chiaramente una belinata, gli è uscita e deve, non so perché si prenda queste leggerezze. Dopodiché c'è quella e cos'altro c'è? Beh, c'è. Cosa ha fatto sto uomo? No, allora, io le leggo un altro curriculum che è stato dato, da quello che mi risulta, dalla segreteria dello stesso Giannino a un posto dove doveva fare un convegno. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed economia, in seguito degree, corporate finance, public finance, alla Chicago Booth Business School, Chicago University. Tutto ciò non risulta. Allora, siccome questo curriculum è stato diffuso, da quello che mi risulta, è stato diffuso dalla segreteria di Oscar Giannino, le faccio un'altra domanda. Se è vero questo, è un caso di millantato, insomma, di millanteria? Se è vero che lui ha mandato in giro dei curriculum, delle lettere, insomma, delle cose sue scritte, nelle quali dice delle cose che poi risultano non vere, è ovvio che mi l'hanno dato credito. Sarebbe come se io dicessi di essere Michael Jordan, che ieri ha compiuto 50 anni, invece sono solo Michele Boldrin. Appunto, dunque, certo, tutto questo no, certo, no, non c'è dubbio. Se tutto questo fosse confermato, lei che fa? Resta lo stesso con Giannino? Se ne va? Gli dice sei uno stupido, sei uno stronzo, hai sbagliato, ma si volta pagina? È un peccato. Gli pianto un bel casino e ci chiariamo, però adesso capiamoci. Non sai che io che resto con Giannino o Giannino che resta con me, perché questa cosa è simmetrica, cioè non è che vabbè, sei adesso, un padre padrone del movimento. Vabbè, è il leader, professor Bodrin, è il leader, non c'è niente da fare. È così. Allora, prima io ho scherzato, forse, adesso le parlo però seriamente. Certo. Questa cosa è stata creata e nata dall'idea di sette persone, uguali, proprio uguali. Sì, io d'accordo. Quanto Giannino, quanto Brusco, ma proprio uguali. Ma non lo sto dicendo che lei è meno competente di Giannino, le sto dicendo che Giannino è il leader, c'è poco da non fare. Non c'entra niente la competenza, non c'entra nulla la competenza. Quello è il signore a cui abbiamo chiesto di fare da leader in questa campagna elettorale, che secondo noi era la persona adeguata, che andava bene. Ma se ne può fare a meno, come dice Zingales, se ne può fare a meno di Giannino? Cioè, se è il caso, si può fare a meno di tutti, di Boldrin, di Zingales e anche di Giannino, per carità, però le cose poi bisogna provarle, bisogna ragionarci. Però fosse così come le ho detto, lei dà ragione a Zingales. Secondo questo è un movimento di 100.000 persone con delle idee che esiste indipendentemente da Boldrin, Zingales e Giannino. Dunque, e anche esiste anche Moro, anche De Nicola e tutti gli altri. No, ma ho capito benissimo quello che dice, però io le faccio un'altra domanda. No, ho capito, si può fare a meno, non è una cosa che viaggia solo non su Giannino. Questo. No, è giusto anche notarlo. Scusi un attimo, però io le chiedo un'altra cosa. Ha ragione Zingales a lasciare, ha fatto bene a lasciare fare quello che è per questa cosa qui, o c'è sotto qualcos'altro? No, guardi, sull'ultima parte si immagina se mi metto a discutere. Io alla dietrologia non ci credo neanche quando la tira fuori Grillo. Per cui ha fatto bene, secondo lei? No, cioè, si immagina se io metto a fare i processi all'intenzione di quello che Luigi ha scritto. Cioè lei sta dicendo... Quindi se una reazione da quello che leggo eccessiva, perché io non me la sento di andarmene. Perché il problema in cose del genere, il movimento è tanto mio quanto di Oscar. Quindi si immagina se io me ne vado. Cioè se ne deve andare lui, se ne deve andare Giannino, dice lei. Se fosse vero se ne dovrebbe andare lui. Ma nemmeno sto dicendo quello, sto dicendo, ci parlo, adesso appena torno dall'India, fra due giorni, gli scrivo, verifico i fatti e dico, è vero, non è vero, è falso, non è falso, cosa hai fatto, cosa hai fatto, questo. Adesso lei mi ha appena dato un pezzo di informazione, anzi se ce li ha me li mandi qui i CV. Sì. C'è della gente che dice hai mandato in giro dei CV tu scritti, se è vero c'è un problema, però se non è vero qualcuno deve dare scusa a Giannino, capisce? Sì. Perché Però, io, però la frase l'ha sentita su Repubblica, la frase in audio. Guardo la posta, sono qua che guardo la posta che arriva a Raffica. Sì. Me ne arrivano in tutti i colori, però al momento mi è arrivato un link che è questo che avete fatto sentire anche voi di quella maledetta intervista. Beh, però quella maledetta in che senso, scusi? Beh, che, allora, evidentemente che... ha detto una cazzata, dai. Ah, cioè, ecco. Si può dire nella vostra trasmissione? Beh, lei lo sa che si può dire. La nostra nasce da un'idea masticata insieme a un pugno di amici economisti italiani che insegnano in cattedre prestigiose all'estero. Luigi Zingales che insegna a Chicago dove ho preso il master, Michele Boldrini che insegna alla Washington University in St. Louis. Forse un giorno ti potrò sfiorare. Eccoci qui 800240024. Caro Parenzo, il professor Zingales scrive: in un'organizzazione che predica meritocrazia, trasparenza ed onestà, la prima reazione doveva essere una spiegazione di Giannino ai dirigenti del partito, seguita da un chiarimento al pubblico. Invece Oscar si è rifiutato nonostante io gliel'abbia chiesto in ginocchio. Lei crede a questa versione? Boldrin, lei ci crede? Oddio, non so se si sono visti, perché so che Luigi è a Chicago e Oscar è in giro per l'Italia, come ero io fino a ieri quando poi ho preso l'aereo per venire qui. Guardi, adesso le do la parte seria, poi vi siete simpatici e possiamo ordinare con battute semiserie. No, ripeto, io se fossi stato Oscar se fossi stato Luigi avrei aspettato, anzitutto me ne sarei andato, perché ripeto, il movimento è tanto mio quanto di Oscar, di Luigi, di Sandro, di tutti i 100.000. Cioè, se ne sarebbe andato chi? Oscar? Non ho capito. Ma sì, se c'è una questione gliela pongo. Il problema vero che ho in questo momento, formale se proprio vuole, ma anche sostanziale, perché cerchiamo di non impiccare la gente al volo sulle trasmissioni radio, siccome in America anche questa cosa qua, che la legalità ha già le sue regole, siccome il movimento ha una direzione e più di una direzione non ha, perché è una cosa che abbiamo costruito al volo. Che vuol dire una direzione? Ha una direzione composta di 17 persone di cui né io né Zingales facciamo parte, i quali si tratterà di chiedere di esprimere un'opinione in questi 6 giorni che rimangono, dopodiché abbiamo tutta l'intenzione di costruire una cosa organizzata, un partito, la questione verrà esaminata. Secondo me le cose si fanno così, non si fanno al volo con... Ho capito, tra il Giannino che dice mai preso un master alla Chicago Bulls, perché quello ha detto oggi, e il Giannino che abbiamo sentito a Repubblica, c'è una contraddizione sì o no? Grande come una casa, no? Palese. Palese. Te l'ho detto prima. Se l'aspettava da Giannino? Una cosa di questo tipo? Guarda, io sono uno molto, molto pessimista anche sugli umani, perché anche per quello voglio bene a loro, anche uno come Giannino. Siamo tutti imperfetti, io e Giannino. Me l'aspettavo, non lo so, ognuno di noi ogni tanto fa qualche cazzata. Lui ne ha fatta una, l'ha anche ammessa però adesso, quindi non so quanti sono che le ammetta. L'ha ammessa o no? Ammessa, per adesso non mi pare che l'abbia ammessa. Beh, non mi pare, ha detto che le cose girano su internet. Ha detto che lui il master non ce l'ha. Beh, sì, certo, ma quello è evidente che il master non ce l'ha. Però in tutti i curriculum mandati che erano presenti su internet c'era questa cosa del master alla Chicago. A Repubblica dice il master, uno può anche capire, finché non mi hanno scoperto, ho tenuto in piedi questa cosa del master. Quello che capisco io da persona come io guardo, ho grande simpatia per Giannino e anche oltre, però io non guardo in faccia a nessuno, io guardo la realtà, non è questione di amicizia no. C'è in Italia, poi lei lo sa benissimo, ha studiato all'estero, questa mania, professor Boldrin, di attribuirsi, che io non pensavo fosse di Giannino e ancora non ci voglio credere fino in fondo, di attribuirsi titoli accademici che non esistono, una cosa tutta italiana. Sì, diciamo. Lo so, l'ho notato, in italiani lo fanno sempre, infatti, a me irritano quando chiamano professore e invece sono tutti che vorrebbero, evidentemente può darsi che ne abbia sofferto anche lui, dico. Questa cosa però. Questo è quello che riesco a sentenziare, perché in queste cose cosa vuole nel nostro buon paese, facciamo un po' la gogna pubblica rapidamente. Io per carità amo molto la trasparenza, amo molto anche essere molto preciso, però ripeto, vorrei vederli sti CV prima, io quindi tutte le mie affermazioni hanno un bel se davanti, perché per il momento io quello che ho visto è sta benedetta, ma io a lei credo che ci stia, sti curriculum ci sono, per carità. Guardi, ce n'è uno qua che le ho letto, uno che le ho letto che fa parte di una, all'interno di una, di un circuito dove era stato invitato anche Giannino, noi abbiamo chiamato, qualcuno ha chiamato per noi lì e loro ci hanno detto, ce l'hanno mandato dalla segreteria di Giannino, dove c'è scritto Corporate Finance, Public Finance, la Chicago Boot Business School, Chicago University. Però, professore, dimmi Parenzo, che c'è? No, voglio dire al grande professore che abbraccio fortissimo, perché è fantastico come ha messo al muro la economista dei grillini, quindi per me è stato il top. Mi ha fatto godere come una scimmia, proprio, è stato strepitoso. Boldrin, Sì, sì, come non ha fatto, con il suo solito modo di fare, ha fatto, sì, vabbè, economista, ma sì, boh, io a Madrid non l'ho mai vista, da cosa, stupendo, stupendo. Che beh, quello lì è vero, dai, quella lì, cioè, vabbè, quella invece l'ho verificata. Uno potrebbe dire, se è mai vista a Chicago, manco Giannino, però, capito che tutto cambia in pochi giorni, in pochi istanti, in pochi istanti. Vabbè, è la vita. È la vita, non c'è dubbio. Che vuoi, Parenzo, che vuoi, che non ti si sente niente? No, volevo dire che se stasera il professore mi confermasse che le teorie economiche di Grillo sono delle cazzate megagalattiche, io godrei ancora di più. Ecco, che cosa sono le teorie economiche di Grillo, professor Confermate, Bodrini? Confermate, sono delle cazzate megagalattiche. Addirittura? Ma non sono neanche delle teorie economiche, cioè, voglio dire, lei che sentito? Sono delle cazzate. Ma sono delle frasi in libertà. Guarda, quella per esempio ultima, sì, che poi mi ha fatto osservare un amico mio, non ce l'ho neanche, sì, arrivato così al volo in trasmissione. Sì. Quella cosa lì del togliamo il pignoramento della prima casa, no? Sì, allora, sì. Ma quella pure Scilipoti, la dice, figuriamoci. Che è tutto dire. Ecco, bella copia. Uno mi ha fatto osservare, ma ti rendi conto che se la prima casa diventa impignorabile, nessuno più presterà più soldi a nessuno? Ma proprio nessuno, non importa quali sono i tassi di interesse. No, ma sono d'accordo con lei, è una follia. 50.000 euro a caso, questo mi dice 30% di interesse, tu, sì, dici sì, te li pago, prendi 50.000 euro, ti compri la prima casa, fine. No, sono d'accordo con lei. Guardi, un'altra cosa, ma se fosse vero, Giannino si dovrebbe dimettere temporaneamente dal movimento, se ne dovrebbe andare. Se fosse vero, come sembra, che dice? Se ne dovrebbe andare, dovrebbe sospendersi, mi dica tutto. Dovrebbe darci delle serie spiegazioni. Vabbè, serie spiegazioni l'abbiamo capito. Serie spiegazioni l'abbiamo capito. Quello è chiaro, con me le deve dare. Ma dovrebbe, se fosse vero, per questa menzogna, dovrebbe... Guarda, faccio il democristiano, nel senso che devo riuscire a capire nella mia testa, te lo dico con tutta, con tutta sincerità, riuscire a capire nella mia testa se questo è un peccato, perché peccato è, ok? Sì. Devo riuscire a capire se è un peccato grave che io me lo guardo in faccia e dico non mi fido più di te, e quindi... insomma, un ruolo dirigente non lo puoi avere nello stesso posto in cui ci sono. E di cosa ha bisogno? Di parlare con lui? Io. Ha bisogno di. Se riesco a dire è un peccato veniale e non posso ancora fidarmi di te. Onestamente, non lo so. Se decido per la prima cosa, se decido che è un peccato grave a sufficienza, che io di quest'uomo non mi fido più, lo saprai e glielo dirò. Guarda, c'ho proprio zero problemi. No, ma mi becchi un po' fuori. No, ma ho capito. Non so, non è che sono imbarazzato. Però deciso, la frase di Repubblica sembra tagliare la testa al toro. Non è che uno può pronunciare le frasi in libertà così. È un dirigente, uno che si. Anch'io ho detto di cazzate nella vita, Vabbè. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è, pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me, e balli il suo twist, e balli il suo twist, la zanzara twist, una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi... Io ho anche consultato alcuni amici che ho nell'ambito cattolico. Sono autorizzato a dirvi che per la verità e per la libertà, come missionari di verità e di libertà, potete telefonare anche alle vecchie fidanzate e ai vecchi fidanzati. Ove sapeste che non sono ancora convinti, potete telefonare anche a loro per convincerli. La zanzara è l'imprendibile insetto che le più volte non lo vedi mai. Grillo è un fenomenale istrione. Boldi, che lo conosce, dice che è l'uomo più cattivo che abbia mai conosciuto in vita sua. Io prometto che se lunedì sera, o comunque in ritardo martedì, Monti, Fini e Casini restano fuori dalla camera, mi ubriaco! Dalla sera alla mattina, dal soggiorno alla cucina, dal giardino alla cantina, l'ho inseguita, ti ho inseguita, ora sei qui fra le mie dita. La foto di gruppo l'avete ancora fatta? No, no, perché ci siamo sì e no visti una volta insieme, perché stiamo percorrendo l'Italia per la campagna elettorale. Io non provo nessuna vergogna. Questa è la Zanzara, 800 24 0024. Esplode il caso Giannino. Berlusconi sta parlando, dove? Qui alla Fiera di Milano. Casini torna sui gay. Molti miei amici gay non chiedono il matrimonio e chi se ne frega. Mi sembra però che molti anche nel movimento degli omosessuali non chiedano affatto, per vivere questa loro storia d'amore o questa loro vita di convivenza, di essere omologati alla famiglia regolare. Pensano che ci sia il matrimonio, che è l'uomo e la donna, e la convivenza, che può essere anche riguardare omosessuali. Ma lei gira sempre intorno a me. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti, non avrò nulla in comune con questa coalizione di centrosinistra, poi torna a chiedere un confronto a tre in televisione. Berlusconi avverte la Lega, se crea problemi saltano le giunte del nord. Monti è disperato, sono disponibile solo ad un duello con Bersani. Bersani replica, basta con i balletti, il confronto in TV deve essere tra tutti, la nostra coalizione è unita, gli altri non li ho mai visti insieme. Draghi, l'economia in Europa non migliora, i conti pubblici vanno risanati ma tagliando le spese, le tasse sono già troppo alte. Preparativi per il conclave, polemiche sulla partecipazione del cardinale americano Mahoney, accusato di aver coperto i preti pedofili. I PM di Siena, Firenze, dai colleghi che indagano sul credito cooperativo fiorentino, la Consob sul Montepaschi, manipolazione del mercato. Da Calimero a Carmensita con i suoi personaggi, Carosello ha segnato un'epoca. Adesso la Rai lo rilancia, presto in TV una nuova serie. Zanzara! C'è una zanzara tigre. C'era una volta, caro Parenzo, il famoso tridente. Il famoso tridente della Lombardia, no? Sai da chi era composto? Io dico era al passato, adesso ti spiego perché. Il famoso tridente lombardo di Monti. Sì. Lo sai o no? Chi era il tridente? Vabbè, non chi sai era? Un cazzo. Pietro Ichino. Pietro Ichino. Ex PD. Ah, Ichino Albertini. Mauro. Ichino Albertini. E Mario Mauro. Certo, Mauro. Però esatto. Adesso anche Ichino ha, come dire. Appunto, il famoso tridente lombardo c'era una volta. Con Mauro e Albertini, che fino all'altro giorno erano con Berlusconi e ne tessevano le lodi in maniera sperticata, no? Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno, poi si può anche cambiare idea, però questa è la realtà. E Ichino che proviene dal PD. Questo è il tridente. Adesso cosa succede? Signor Mauro dice che non ha il coraggio di dirlo, che bisogna votare Ambrosoli, e dice, magari perché è convinto, che bisogna votare Albertini. Ichino invece, signor Ichino, oggi ha detto alla regione: io scelgo Ambrosoli. Ma come si fa? Ma che mondo è questo? Dai, su. Ma sì, ma ognuno va per i cazzi propri, mi pare, lì dentro. Appunto, quella lista civica. Dai, ma quale scelta civica? Ma quale scelta civica? L'ho detta, diciamo, scelta con caos. Scelta caos. Sì, non con, l'ho detta senza il linguaggio politologico che si dovrebbe usare in questi contesti. Sì. Mi pare che ognuno vada per i cazzi propri. Mi ha detto per far capire a chi ci ascolta, eh. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se no. E allora io lo dico, che gente così, per il merito, l'aspetto nell'aula del Parlamento. Tutte le volte che quel magnifico rettore si alzerà e parlerà di merito, avrà una voce che dirà: taci miserabile! Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Com'è quella detto? Chi fa il puro? E trova un puro più puro che ti è pura, diceva il compagno Nenni. Da quello che leggo, le prove mi sembrano inconfutabili. Io non so se sia un peccato veniale, un peccato mortale, però non c'è dubbio che Oscar Fulvio Giannino, che abbraccio fortissimo comunque, beh, faceva circolare curriculum con un master alla Chicago University che non ha mai conseguito. Diciamola tutta. Diciamola tutta. Diciamo così che è stata una grave leggerezza, negli Stati Uniti queste cose qui, come ha ricordato Zingales, queste cose qui ti fanno il pelo e il contropelo, cioè contano moltissimo. In un paese come l'Italia, beh, Giannina è una brava persona, perché domenica l'Italia comunque di fronte a veri malfattori che sono stati al governo. Ma cosa c'entra? Fai il benaltrista, cosa c'entra, no, adesso questo? Ma bisogna contestualizzare. Ma cosa c'entra? Dire... Non c'entra niente, dai, su, voglio non c'entra dire, niente. Ma scusa, scusa, una... ma lascia perdere peccato veniale o meno, scusa un attimo, qui. Qui no, ha conseguito che... lauree, no, no, no, però... a me fanno incazzare queste cose. Ha conseguito lauree in giurisprudenza ed economia, in seguito degree corporate finance, public finance alla Chicago Booth Business School, Chicago University. Questo era un curriculum che veniva diffuso dalla segreteria. Dai, su, basta. Basta. Ma appunto, avranno fatto un copia e incolla. Comunque ha sbagliato. Ma su questo poi di dubbio, mi chiedi qualcosa che non posso dire, se ancora ho voglia di? Chiedimelo, ho ancora voglia di? Dimmelo. Cruciani, hai ancora voglia, come hai manifestato più volte, di? Sì. Oscar Giannino? Sì. Ma scusa, noi adesso siamo concentrati su questo. Cioè però fammi sentire Ferrara, che è da morire dalle risate. Fammi ma sentire. Scusa, ma del conclave? Ma, no, non vuol dire ma che conclave? Mancano un sacco il di giorni. Mahoney, ah, quello sì. Il capitano Mahoney, quello amico sì. Mio, il capitano Mahoney. Aspetta un attimo. Ma no, ma tu non sai. Ferrara contro Mahoney. I grillini. Ferrara contro i grillini. Senti questa che è stupenda. Ma ero lì con lui ieri, ti credo. Vabbè, ho capito. L'ho sentito, c'era anche a cena con Giulianone, che c'ha anche telefonato. Chi se ne frega? Aspetta. Cioè, se Grillo prende il 20% e porta 100 deputati alla Camera, sappiamo già quello che succede. Allora, beh, pigliano le piccole telecamerine, riprendono i deputati nella sala del transatlantico. Poi si divertono, clic, con la rete. Cioè, una roba infantile, però un po' isterica, un po' autoritaria anche, perché è tutta una roba guidata da una specie di da una faccia demenziale di Scientology, quello con quei capelli, con quella cascata di boccoli, quello che c'ha quel nome che sembra un formaggio, Casaleggio. C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Uno che fa finta di essere un musicista filosofo con quelle canzonette e poi fa l'assessore alla cultura ma fa la tournée, scrocca un ruolo pubblico, è proprio la negazione. Come Grillo, sta specie di marcia su Roma che sta annunciando ormai da un allora mese. Allora ecco, partiamo da... Ma chi è sta robaccia, sti comici, sti musicisti? Ma quando è che viene qualcuno che spazza via tutti questi pagliacci? Ma non vogliamo discutere di cose serie? Sei riuscito a trasformarlo, se non vuoi vedermi intorno. Alberto da Milano, buonasera, 800-24-0024, inizia la canea qui da quello che leggo, è la canea contro Giannino. Cari miei, però non è che potete passare dall'esaltazione alla canea, eh? Alberto, dica. Sì, buonasera Cristian. Dispiace un pochino questa cosa di Giannino, però insomma volevo dire che io l'ascolto da tempo per radio e mi ero fatto un'idea che lui non fosse laureato addirittura. Ma che c'entra laurea? Questo non c'entra niente con la laurea, qui si parla di master. Laurea e master sono cose che vanno un po' insieme. Ma che c'entra? È laureato, quello vuol dire, fino a prova contraria è laureato, abbia pazienza, adesso non si può mettere in ballo tutto. Sì, credo proprio di sì, certo. Allora, lo dichiara. Se è laureato, fare un master, tanti fanno un master, nel senso che lo iniziano. Non l'ha fatto, l'ha detto lui, non l'ha fatto. Forse non ha capito bene. Lo ha detto oggi, non ho fatto nessun master. Dopodiché, nell'audio che abbiamo fatto sentire, ha detto ho fatto un master. Vabbè, allora via. Meno grave del previsto, dai, meno grave del previsto. Ma come meno grave? Marco da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dico con i miei tempi, ma dico molto semplicemente cosa cambia. Nostri, comunque, eh? No, guardi Cruciani, un po' ci si rispetta un po' per uno. Non inizi a vada, dica. Pesante come usualmente. Vada, è veramente, vada, ha perso tempo già. Cosa cambia che Giannino abbia o non abbia fatto questo master? Ha fatto un errore? Bene. Giudichiamolo sui programmi, oppure bisogna fare qualcosa di incredibile. Abbia pazienza, scusi, dica. Marco, lei è uno che vuole votare Giannino? No, io sono uno che non sa sinceramente chi andare a votare, che non voterà il 5 Stelle per protesta. Se uno sostiene e dice di avere conseguito un master, se uno sostiene di avere conseguito un master, lo scrive, lo dice e dopodiché non è vero e fa del merito la sua bandiera, qualche problema forse c'è, no? 800 24 0024. Taci, miserabile! questo nano che balzella da un talk show all'altro, lo vedete? È l'occhio del morto, è morto! Non farà assolutamente niente, non sposterà niente! Non sa più cosa fare, balzella di qua e di là! A dire tutto, se uno crede che Berlusconi sia vivo, allora è vivo anche Mastro Lido, andate nella vostra lavatrice e guardateci dentro. Perché? E allora? E mentre questa gente dice queste cazzate in televisione, il paese se ne va. Che c'è un fresh della... Provate a entrare in Parlamento una volta a vedere che cosa fanno i parlamentari con l'esperienza. Fanno un clic e votano leggi che non capiscono perché non devono capire. Votano il paragrafo 5 del comma 7 che modifica la legge 211 del comma 5 e del comma 70. E allora quando fai un lavoro e il tuo lavoro è non capire, diventi psichiatricamente inadatto, ti senti un uomo sconfitto. E allora per vedere e per far vedere che loro sono persone credibili, dove vanno? Non vengono nelle strade, non vengono nelle piazze, vanno in televisione a dire che loro sono perfetti, colti e credibili. Sono morti! Poi dice Grillo una grandissima cosa sui commercialisti. Senti questa, Parenzo, tu che sei sempre scettico, senti questa, ha perfettamente ragione su questa cosa dei commercialisti. Vediamo. Sì. Magari tante cose le dice in maniera assurda, tante cose economiche, come ha detto prima Boldrin, non stanno né in cielo né in terra, ma senti questa cosa sui commercialisti, in cui ha perfettamente ragione. Senti. In nessuna parte del mondo, da destra, c'è qua il danese, e dice, ma voi come pagate? Io vado da un commercialista che mi fa la dichiarazione. E mi dice, ma che cos'è il commercialista? Non lo conoscono il commercialista. Io non voglio passare attraverso un commercialista che se sbaglia la prendo nel culo io. Ma, allora, scusate la volgarità, mi scusi. Una parola d'uma dirà te, più vista in città, se no dormire, zanza. Questa è la Zanzara 800 24 00 24. Senti, ma cosa mi scrivono, vita. Senti cosa mi scrivono sul sito. Giannino scrive che non ha mai preso un master a Chicago e che da quanto detto a Repubblica si poteva equivocare. Cruciani, fai pena, vergognati. Io non sono asservito a nessuno, chiaro? A nessuno. Se c'è qualcosa da dire la dico anche sugli amici e sui parenti. Punto e basta. Punto e basta. Non devo fare campagna. Non devo fare campagna per nessuno. Non devo fare campagna per nessuno. Mica è una tribuna. Mica siamo una tribuna politica e mettiamo. Però voglio dire, tra questo, tra il caso Giannino e il caso del Cardinal Mahoney. Vabbè, ma lascia perdere adesso il Cardinal Mahoney. Ma che me ne frega del Cardinal Mahoney? In questo momento non me ne frega nulla. Invece c'è la questione della televisione che è incredibile. Perché? No, la questione della televisione in cui vi prendono per il culo. Ognuno agisce secondo la propria convenienza. Perché Bersani non vuole fare un faccia a faccia solo con Berlusconi? Perché è evidente che chi è in vantaggio, ha tutto l'interesse a non fare questa cosa qui e vorrebbe, vorrebbe un confronto a 3, a 4, a 6, a quello che è. Ma no, ma quello è giusto. Berlusconi non vuole un confronto con Monti e con Giannino perché sono più competenti di lui e potrebbero metterlo in difficoltà su questo livello, su questo punto. Monti è in difficoltà e dunque farebbe un confronto con chiunque, pure con noi. Siamo qui, ascoltatori, Silvio da sì. Torino, buonasera Silvio. Dopodiché se invitiamo Monti, ci ammazza la trasmissione e chiudiamo la Claire proprio. La comunque, Claire, non è Silvio, non dica. Non è quello il problema. Il problema è che Bersani, dal punto di vista, avrà anche le sue convenienze, ma dal punto di vista del metodo, ha ragione. Cioè i candidati sono quelli, perché Berlusca deve scegliere. Non dire stronzate, non fare la solita cosa militante nei confronti del Partito Democratico. Ma Silvio, non è vero, non è così. Ho detto non è così. Che Bersani avrà le sue convenienze. No, ma è l'unica cosa che l'unica cosa è quella. Sono solo le convenienze, non c'è nessuna regola, non esistono le regole in questo caso, non esistono regole. Ma andiamo nel merito. Ma quale merito di che cosa? Di che cosa? Qual è il problema? Chi è che può vincere le elezioni? Oggettivamente, chi è le... Allora te la metto su un altro punto, chi le può vincere le elezioni? O Bersani o Berlusconi, no? Il tema della legalità. Vabbè. E del diritto. Silvio, è un... ma quale legalità? Ma come fai a non capire? Silvio da Torino. Le maestre formalce mi fa parlare. Vada. Niente, volevo appunto dire che io ho ascoltato Giannino, l'ho sempre ascoltato, anche lei, diciamo, su Radio 24. Giannino, io mi ricordo quando il figlio di Bossi, il Trota, aveva preso quella laurea in Albania, l'ha criticato come non so cosa, ne ha fatto una pre-campagna elettorale. Lei sta dicendo come il Trote, come la Santanchè peraltro, che ci fu una disputa pure sul master della Santanchè, che non era un master ma era un corso alla Bocconi. Sì, ma diciamo peggio ancora del Trote, perché almeno il Trote l'ha comperata la laurea. Cioè Giannino dice che ha fatto un master che non ha fatto. Per cui, essendo un leader comunque di un movimento, di un futuro partito, secondo me ha perso credibilità. Quello che posso dire io è che comunque Giannino non è assolutamente più credibile, perché come fai a credere a una persona che si inventa una cosa del genere pur di acquistare credibilità verso le persone? Grazie Silvio. Jimmy, provincia di Bolzano. Grazie Silvio, chiarissimo. Jimmy? Non si sente niente. Scusi, si sente o non si sente, Jimmy? Pronto? Sì, dica. Si sente? Dica. Ci sono le prove che Giannino non ha. Non si sente nulla. Claudio dalla provincia di Pesaro. Sembra il mio telefono. Buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo. Benissimo. Vada. Volevo dire che è quasi un merito se non ha conseguito il master. Può darsi, perché però la mia idea è che gli economisti più studiano e più capiscono niente di quello di cui dovrebbero occuparsi. Vi rimanderei all'opinione di un certo Kennedy, sì, che in un meeting di economisti, non ricordo esattamente il contesto ma ricordo il fatto in generale, evidentemente allegro dopo una notte, evidentemente interessante in qualche maniera, penso che fosse il suo sport preferito, gli disse: papale papale, ma se voi applicaste a voi stessi le vostre teorie diventereste miliardari, cosa venite a perdere il tempo per $5,000 al mese all'università? Gli economisti dovrebbero essere azzerati, questa è la mia opinione. Vabbè, adesso è un'esagerazione. Tutto quello che dicono è assolutamente aleatorio. Se mettete le teorie attualmente in circolazione su un piatto o su un tavolo, sono tante, sì, poi scoprirete che di 10, 9 sono da buttare via e uno per caso si è preso. Va bene Claudio, grazie, non capito. Si parla più. Ho capito. Michele da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Complimenti per vada, lei. Vada diretto. Ecco, volevo dire che Giannino è un millantatore, lui fa la morale agli altri e poi il primo a fare il figlio di buona donna e vuole solo infangare Berlusconi, questo è quanto. Vabbè, ho capito. E dica a Parenzo che chiami l'ambulanza, che ora che vada via. Perché devo andare via? Perché è un estremista. Estremista di cosa? Comunista estremista. Ma che comunista estremista? Ma la smetta. Sì, sì. La saluto. Grazie, Michele da Milano. Tu sei estremista pure comunista. Io la guardate che anch'io ho trovato, detto con tutto l'affetto, la spiegazione di Giannino su internet è abbastanza imbarazzante. Cioè, rispetto alle accuse di Zingales, se voi confrontate le accuse di Zingales e la spiegazione di Giannino su internet, quella che dà su Facebook anche nella pagina di Fare, è imbarazzante. Perché poi resta questa frase impressa, quella che ha detto a Repubblica, uno non è che gli può essere scappato. O l'hai fatto il master o non l'hai fatto. Due sono le cose. Non si può sfuggire a questa logica. L'hai fatto o non l'hai fatto? Se non l'hai fatto, perché dici questo? La nostra nasce da un'idea masticata insieme a un pugno di amici economisti italiani che insegnano in cattedre prestigiose all'estero. So, Luigi Zingales, che insegna a Chicago, dove ho preso il master. Michele Boldrini. Dove ho preso il master? Ragazzi, se uno si erge a puro, se uno si erge a moralista, se uno dà del cialtrone a quello, del coglione a quell'altro, e poi cadi su una cosa del genere, poi è normale che la gente ci chiama e ci dice: ma scusate, questo qua tonava contro l'universo mondo, dopodiché va a dire in giro che c'ha il master e non ce l'ha. Master, che bisogno c'è? Il master a Chicago, chi se ne frega? È importante quello che dici, non il master a Chicago. Ed è con noi Augusto Minzolini, buonasera, candidato al Senato per il PDL in Liguria. Ciao Augusto. Ciao, come stai? Stai bene? Bene, bene. Che ne pensi della vicenda Giannino, Augusto? Allora, non voglio parlare perché sai, alla fine succede sempre così, che in queste situazioni tutti danno al personaggio di turno, alla vittima di turno. Ma lì c'è un elemento indipendentemente che è indipendente da resto, cioè nel senso che lui è un po' malato di egocentrismo, è un po' è tendente allo strafare e quindi tante volte capitano questi scivoloni, ma comunque quello che dicevi tu prima è vero, cioè nel senso, se poi tu sei il più puro degli altri, quando poi fai diciamo anche un peccato così che ti costa di narcisismo, rischi che poi ti venga tutto. Certo che è strana questa cosa. Prima il professor Boldrini, che è un altro di quelli di fare, diceva: beh, certo, solo in Italia uno millanta titoli di studio. C'è un po' una mania italiana, adesso se sarà confermato, ovviamente, no? C'è un po' una mania italiana di vantare. È l'epoca del tecnico, e allora si è aumentata, diciamo, questa mania. È un anno di tecnici in cui andavo a vedere advisor di là, qualcosa, bocconi, e tutti quindi alla fine dovevano partecipare alla gran fiera della vanità. No? Allora, oggi c'è stato un fatto importante nella vicenda Minzolini-Rai, ed sì, è questa, cioè i legali di Minzolini, ascolta bene Parenzo, tu sei disinformato come al solito. Parenzo non sa niente. I legali di Minzolini hanno chiesto il re... Parenzo mi deve chiedere scusa prima, per la storia della cartellina. Sì, adesso faceva tanto ironia. Arriviamo alle persone, alla classifica delle persone che ti devono chiedere scusa per la vicenda della carta di credito. Allora, oggi i legali di Minzolini, secondo quello che è il contratto, adesso non andiamo a fare i leguley ricapitolando gli articoli del contratto, che sono gli stessi per i quali la stessa legge per la quale tu sei stato estromesso da guida del TG1, l'articolo 3, l'articolo 4, beh, lasciamo perdere, hanno chiesto il tuo reintegro al TG1. Ma no, guarda, non è che loro chiedono il reintegro, è previsto dalla legge che loro hanno utilizzato. A questo punto non è che loro devono... sto reintegro o no? Sì. Ma non è che, nel senso, loro hanno ricordato alla RAI che devono reintegrarmi perché altrimenti vanno fuori legge. Ah, ok, dunque la legge che loro hanno difeso, no? Perché sembra quasi che uno, sai, reintegra quello che ha fatto Santoro o ha fatto Ruffini. Non è così. Beh, uguale. Perché loro hanno utilizzato una legge su cui ho fatto anche opposizione, perché dicendo che non era neanche tanto costituzionale. Allora, dato che ti ha applicato l'articolo 3, comma 3, anche applicare l'articolo 3, comma 4, che prevede che io, se per caso venga assolto anche in primo grado, devo entro 10 giorni essere rimesso nel posto. Ma se ti reintegrano, tu che fai? Ti dimetti subito dopo dalla direzione del TG1, cioè rinunci all'incarico, oppure se viene eletto in Parlamento opti per la direzione del TG1? Ma guarda, io mi sono presentato a questa elezione intanto perché mi avevano messo il bavaglio, quindi c'è l'elemento dell'informazione. Vabbè, è così, te lo dico così, purtroppo, perché altrimenti non avrebbero fatto tutto questo gran confusione e combinato. Cioè, il bavaglio per te significa il fatto che ti hanno estromesso dalla guida del TG1? Ma io ero finito, poveretto, cioè, perché non l'avevo visto, diciamo, nello stesso posto da Santoro, stavo in una specie di gabbia dorata, ma mi occupavo d'altro, era un ruolo assolutamente, diciamo, non avevo nessun tipo di compito editoriale, e io sono stato preso dall'IRAI, sono stato preso perché per compiti editoriali, in cui gestivo, diciamo, il trasferimento da una sede all'altra delle corrispondenza, e basta. È chiaro che quindi sarebbe stata la prima campagna elettorale dopo 30 anni in cui non avrebbe mai potuto dire. Voglia di dire la tua, come hai detto, e ti sei cambiato. Però è un problema che riguarda l'informazione, quindi, cioè, secondo me, poi deciderò, vedo quello che succede. Vabbè, a bavaglio o meno, la domanda molto semplice, Augusto, è questa qua. Tu, tra fare il deputato e fare il direttore del TG1, cosa vuoi fare? Beh, sai, il sacro, come dice, il fuoco del mestiere che tu conosci è la cosa che mi tenta di più per tanti motivi. Perché l'ho Dunque, fatto se ti reintegrassero sul serio, se ti reintegrassero, torneresti a fare direttore del TG1 e lasceresti il Senato, dove verrai sicuramente eletto, così? Sì, nel senso che da questo punto di vista io penso che sia importante, anche perché è una battaglia che a me ha molto ferito, non la trovo giusta, non è giusta né per i modi che loro hanno utilizzato, che sono secondo me fuori proprio dal mondo e danno la sensazione di una società abbastanza barbara, non è giusta per il tipo di atteggiamento che hanno avuto i media, nel senso che ti condannano ancora prima, e quindi questo ti porta ad avere pure un atteggiamento diverso rispetto all'informazione. E per cui, diciamo, sono estremamente tentato. Poi ti ho detto, queste cose qui uno le vede, perché, però è chiaro che oltretutto ma questo reintegro entro quando dovrebbe arrivare? Allora, la legge prevede entro 10 giorni, cioè entro quando? Entro martedì, mercoledì, giovedì? Ma io ho detto quando sono uscito, nel senso che dovrei andare lì a commentare i risultati elettorali. Addirittura, cioè entro domenica dovrebbe... Entro domenica, lunedì, martedì, ecco, mettiamola così, guarda. Allora, vediamo lo scenario è questo: entro lunedì c'è il reintegro al TG1, tu vieni eletto, come sarai eletto, lo sanno tutti, al Senato, martedì, che succede? Lasci subito il Senato e torni al TG1? ti ho detto, io ti ho detto da questo punto di vista, chiaramente non posso dirti ora, certo farò delle riflessioni. Ma l'hai detto prima, cosa... preferisco fare direttore del TG1. Ma scusa, certo, perché ti devo dire, ora è questo, perché anche certo, diciamo, il certo. modo in cui... Poi che conto, mi hanno detto, ti dico un'altra cosa che a me veramente lascia perplesso. Sì. Cioè, tu ti ricordi, ogni volta che io perdevo con il TG5 succedeva una no, certa, ma lo so, i risultati tu... adesso ti danno ragione, e questo bisogna dire che è anche vero. No, ma scusami, però al di là... Guarda, sta buona per essere, perché guarda, prima chiedi scusa e poi ne riparliamo. Chiedi scusa a Mizzolini, chiedi scusa a Mizzolini. Allora, Davide, io devo dire... Hai ironizzato oddio. In maniera vergognosa su questa io cosa la carta di credito. Quando hai detto sbaglio... le Granzi, la fidanzata, io pure in parte. Ma io sono abituato, a differenza vostra, sia di Mendolini che di Cruciani, quando sbaglio sono abituato a dire... Ma ho sbagliato, che tu sei sbagliato. Ma no, questo non sono d'accordo, anch'io sono uno che ammette gli errori. A differenza vostra. Dopodiché è stato assolto, sono molto felice, l'avevo anche detto, sono felice che Mendolini non ha rubato i soldi. Ma ci può essere l'opposizione, rispetto a... No, ma sono felice che... Beh, io mi sentenza ha detto che Mizzoli non ha rubato i soldi Rai, sono felice. Dopodiché dico, ma scusami, ma dice che è stato censurato. Censurato un cazzo, 500.000 euro all'anno, mandato a dirigere un altro settore, io questo non la chiamerei Vabbè, censura. Vabbè, lui ha detto prigione d'oro, l'ha detto. Ma io sono d'accordo con te, ma il problema è un altro. Se tu mi mandi a fare un altro settore... Ma è la fondo. No, ma lascia perdere, non solo guardare i soldi o altro, perché uno se va a fare il direttore del TG1, lo va a fare anche perché vuole fare il direttore del TG1, vuole continuare a fare il giornalista. Se va a fare un'altra cosa, il discorso è un altro, no? Uno non è che, cioè, nel senso, siamo nati per fare un certo tipo di mestiere. Io ho scelto questo mestiere. Scusami, Augusto, dimmi la verità, però in Parlamento si guadagna un po' meno rispetto a quella cifra là. Ma guarda, quello, perché sai, se noi siamo appresso a questo, proprio vabbè, a fare un po', anche sì. il senatore, ma vai anche a fare il senatore, non è poco, nel senso che nel curriculum puoi sempre dire che hai fatto il senatore. Beh, però ci perderesti. Ma io, guarda, ti posso dire, non sto a guardare quello, io sto a guardare più la mia vicenda, che è una vicenda che mi ha colpito, è ferito davvero, e quindi, cioè, nel senso, io ho bisogno di una rivalsa, nel senso, sono cose che normalmente, diciamo, sono naturali nelle persone. Se dovessi stare a guardare quello, buonanotte, perché potresti fare il senatore e poi contemporaneamente sì. potrei farmi una bellissima rubrica raccontando tutti i retroscena e guadagnare dentro. E guadagnare gli stessi soldi. Chiaro, quello che facevo. Quindi, non è quello il punto, il nostro mestiere tu lo sai benissimo per quello che fai. E quindi non o c'hai l'adrenalina o c'è l'adrenalina o non ce l'hai. Bravo. Non c'è mai avuto l'adrenalina. No, ce l'ha, però è molto più così. È molto... Senti un attimo, Augusto, no, scusami un attimo. Scusami, ma la mia, non vuoi dire questo a Mizzolini? La mia è una critica adesso al politico Mizzolini, non al giornalista. Ma quale politico? Da noi avevi detto, Augusto, scusami, da noi avevi detto che mai ti saresti candidato perché il mestiere, il giornalista, l'abbiamo rimandato anche a noi. Ma io fatto, però posso dirti una cosa, nel senso, è vero, però quando tu ti ritrovi nella mia condizione, è chiaro che ti ho detto... ti vuoi togliere il bagaglio, ma no, te lo dico solamente perché è stata una condizione quasi esistenziale, e diciamoci la verità, togliamoci questa ipocrisia, perché ma tu potevi dire quello che volevi, no, però adesso, diciamoci la verità, cioè, nel senso, quando tu fai la scaletta di un telegiornale, a me tante volte mi viene pure Mentana quando parla così e dice no, fai la scaletta di un telegiornale e non fai politica. Mentana prima ha puntato su Fini, poi ha puntato adesso sta puntando su Grillo, ma di che parliamo, dai, cioè fa politica pure Mentana, dici? Tutti l'ha fatto Scalfari, poi è uscito fuori, è tornato, ha fatto Repubblica, male a parlare, lui è sempre, diciamo, al di sopra delle parti. La Gruber perché non l'ha fatta, Santorino non l'ha fatta. Ma dove sei? L'auricolare? Che c'è? L'auricolare? Che c'hai? No, sto sul telefonino, sto però dentro una stanza perché sto facendo campagna elettorale. Sì. Allora, un conto ti ho detto, il male secondo me... Cioè tu dici politica la fanno... Sì, ho capito, politica la fanno tu. Per esempio anche Mentana, che è considerato lì il baluardo della cosa così, le scelte che fa sono politiche, questo vuoi dire? Massimo, nel senso che quando tu fai una scaletta la fai, è evidente, no? Ma tu dici ha puntato su questo, ha puntato su quest'altro, questa ma è stato così, ma basta che tu vai a vedere, non ti ho detto nulla di... Basta che tu hai una, diciamo, rianalizzi nella memoria il tipo di impostazione che ha dato nel giornale, in cui tu vedi che aveva una preferenza, puntava su... Allora, l'elenco di chi si deve vergognare per la tua vicenda della carta di credito da cui sei stato assolto. Il primo che è il fatto... Travaglio, chi è che si deve vergognare? Beh, chiaramente il fatto è quello che ha esagerato più di tutti, ma tieni conto che il fatto oltretutto mi aveva dato ancora prima per la vicenda di Trani un reato, una vice garanzia per un reato che non c'è mai stato, concussione, invece non era. Lascia perdere, c'è un atteggiamento assurdo in questo paese. Ecco, scusami, Augusto, ma tu dici Travaglio mi deve chiedere scusa? Ma certo mi deve chiedere scusa. Se io mi chiederebbe scusa. In ginocchio magari pure, no? Ma no, in ginocchio no, basta. Ma, basta anche, diciamo, un'espressione del viso. Un'espressione del viso. Una telefonata? No, non te l'aspetti. Ma chi se, ma che non hai bisogno di quello, nel senso, se tu sei in ogni volta ti aspettavano sotto il tribunale. Ma sai, il giorno della soluzione sono venuti, però non hanno fatto l'intervista, non mi hanno chiesto nulla. Che c'è, Parenzo? Che c'è? C'è pure l'abuso d'ufficio. C'è pure l'abuso d'ufficio per la vicenda della Ferrari. Voglio dire solo una cosa: cioè, Mentana fa un telegiornale. Oh, adesso devi difendere Mentana. Adesso devi difendere Mentana. Ma non ne frega nulla. Ma è un dato di fatto. Non esistono i telegiornali obiettivi, esistono delle scelte. Basta con questa ipocrisia. Il telegiornale che ha fatto è stato poi premiato e candidato col PDL. Almeno siamo onesti su questo, perché se no ci raccontiamo delle balle tra di noi. Lui ha fatto un telegiornale schierato e va benissimo, non sto dicendo nulla. Ha fatto un telegiornale schierato e infatti si è candidato con chi? Con Berlusconi, mica con mia nonna in cariola in astronave. Scusa, capito Minzoli? Diciamo di candidarmi anche in passato. Io questa volta accettato, per questo ci ho pensato anche molto, ma non è che uno sta presso, non è che io, allora, ma non è che puoi dire che sei come Mentana, perché Mentana tu dici prima è andata presso a quell'altro, prima a Fini, poi a cosa eccetera, però è diverso, tu ti sei candidato col PDL. Ma io l'ho fatto perché stavo in questa condizione, perché ero sicuro di essere assolto e quindi volevo dare maggiore impatto mediatico anche, diciamo, alla vicenda. Poi da questo punto di vista io sono d'accordo, ti posso dire. È stato lasciato da Zingales, Luigi Zingales, emerito professore di Chicago, perché Zingales ha scoperto che sulla rete ci sono dei titoli accademici di Giannino, tra cui anche questo master, una specie di laurea a Chicago, che sono del tutto inventati, e l'ha piantato lì e viene via. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna che lui fosse ancora là a studiare e quindi non è venuto a rovinarci la coalizione. Esatto. E beh, Berlusconi a Milano, caro Parenzo, non poteva farsi sfuggire, no? La vicenda quello Giannino, gongola, il suo... Gongola. Sì, però io dico però una cosa, con tutti... Voglio dire ad Augusto no, Minzolini, aspetta un attimo, adesso torniamo con Minzolini, ma con tutti gli spin doctor che può pagare Berlusconi... avesse tirato una cosa fuori una cosa seria su Giannino in questi giorni e gli ha dato del clown, vabbè, e tutto, almeno se la tirava fuori lui era diversa, no, la cosa, vabbè, comunque è un genio. Qui siamo. Ma allora si può dire, Augusto, che sei in Parlamento un po' di passaggio quando verrai eletto? Vuoi tornare? Detto, cioè, no, tu lo so, io capisco che devi dare una notizia, però nel senso, ti ho detto che devo riflettere su questa cosa. No, d'accordo, d'accordo, però voglio dire, rispetto al tuo mestiere, sei in Parlamento di passaggio. Ma certo, quello assolutamente sì. No, io voglio tornare a fare questo mestiere. Oh, vabbè. O subito. Quello no, io guarda, su questo non ho dubbi, ma nel senso, poi se, è come anche giusto, perché nel senso, uno che per 30 anni fa questo mestiere, che fa perché fa esercita poi. Ma vogliamo dire la verità? Civile. Certo, vogliamo dire la verità sulla cosa di Mediaset. Ormai è passata la cosa. Perché alla fine la cosa non è andata? Chi è che ha detto di no all'interno? C'è che veramente, rispetto alla volontà di Berlusconi, che mi sembrava chiara su questo. Berlusconi guarda, voleva. Questo non te lo so dire, questo devi chiedere. Però è vero che Berlusconi voleva? Vero che Berlusconi voleva? Quello mi pare evidente, no? Ma guarda, non lo so, perché io non è che ho avuto tanti contatti, per cui non te lo so dire, cioè, nel senso, so, questa cosa qui girava, però non sono andato neanche chi a si è opposto? A verificare. Chi si è opposto? No, non ce non lo vuoi so, dire. Ti giuro, guarda, non, io poi in queste cose, se c'è qualcuno che si è opposto, non lo so, se si è opposto non so neanche le ragioni. Senti, non sei d'accordo con Berlusconi quando dice che Gubitosi è il portavoce di Monti e Bersani? Questo non lo so, portavoce non credo, però è chiaro che mi sembra che il baricentro dell'informazione in questo momento della RAI è molto spostato su quelle posizioni. Può essere anche normale, perché chi è al governo, cioè, chi è a Palazzo Chigi è Monti. Monti adesso sta a Palazzo Chigi, però mi sembra questo abbastanza evidente dal tipo di giornali che vengono. No, però dico, scusami adesso, perché sennò stiamo veramente facendo la favola dell'orso. Qual è adesso la favola? Che Berlusconi e Minzolini ironizzino sul master di Giannino. Io non ho ironizzato, non ma sono molto rispettoso, dai tu. Vabbè, lo stesso, ma dopo di disinformazione. Ma io tieni conto, sono amico di Giannino, per cui non mi sento di ironizzare vabbè, di queste cose. Adesso faccia il che lui che voglio ma dire ma è normale Ma Berlusconi, come si dice a Milano, lei è cacciabal per definizione. Ma io ti ho spiegato prima al telefono, caro Parenzo, che Berlusconi, come tutti i politici, racconta un sacco di balle e siamo tutti d'accordo. Allora, però è diverso, perché se uno racconta un sacco di balle e non fa il puro, quando uno invece dice Berlusconi è un cialtrone, bisogna il merito, eccetera, e poi dice questo è il punto. Berlusconi può raccontare tutte le balle. Berlusconi lo fa di mestiere, cioè va al convegno degli alpini, dice mio nonno era alpino, ma da quelle della Repubblica Sociale, ma quella è la politica, dai, è la politica fatta da Berlusconi, è così, ma è diverso. Lo fanno tutti, io non penso che se Bersani va al convegno degli alpini dice che a lui piacciono, non so, gli stabilimenti balneari. Vabbè, che dici? Vabbè, adesso la campagna elettorale di Berlusconi non è uguale a quella di Bersani, diciamo lo stile. Ma questo però si dice perché, guarda, ti posso dire, perché partiamo sempre da un presupposto, diciamo, da un pregiudizio. No, le balle le raccontano tutti, guarda, su questo sono d'accordo con te. Poi ovviamente c'è modo e modo, Berlusconi è un po' più fragoroso, diciamo così, nel raccontare le balle. Ma forse perché è più chiaro. Allora tante volte ti arriva questa cosa qui che ti pare. Però è anche vero, se tu vai a vedere le proposte degli uni o degli altri, da una parte c'è soltanto l'intenzione di gestire il declino, visto che parliamo di Giannino. Dall'altra parte c'è un tentativo di agire alla crisi. I programmi non contano un cazzo, dai, diciamo. Guarda, leggiti oggi sul Corriere, ci sono delle cose interessanti. Sì, quelle, per carità, ma tu sai benissimo che poi i programmi contano come due di coppia, lo sai meglio di me, dai. Voglio dire a Minzolini, all'amico Minzo, questo per tornare alla questione del telegiornale che lui ha fatto. La differenza tra basta col passato. No, ma è fondamentale la differenza tra Mentana e Minzolini. Mentana fa un telegiornale politico, Minzolini fa un telegiornale partitico. Ma che partito? No, è vero, ma questa è una cosa che veramente che non accetto, perché non è affatto così. Tu vatti a rileggere, vatti a rileggere tutti gli editoriali. Te li rileggi tutti e poi ne riparliamo, perché io in questo paese, ma non è che va benissimo, non è così. Io hai in questo fatto paese, benissimo, ma è un paese detto, libero, è ottimo. Io guarda, sono felice, che poi mi devi richiedere scusa un altro, prima l'hai chiesto sulle carte di credito, poi me lo dici pure sugli editoriali. Ti dico, andiamola a vedere, ecco, e tu ti accorgerai che non è così. Allora chiudiamola qui, parte questa storia come la storia degli ascolti, poi improvvisamente dopo si accorgono che gli ascolti non sono così. Basta, ti giuro, c'è un atteggiamento per cui se tu per caso dici una cosa che è contraria, diversa da quello che è il pensiero unico che normalmente viene da sinistra, tu vieni considerato uno che è un comico, quello. Scusami, che vuoi. Ma non è un po' strano ritrovarsi in Parlamento con la fidanzata? Eh? Non è un po' strano ritrovarsi in Parlamento con la fidanzata? Ma dai, ma ti pare, lo sai benissimo che è una cosa che è che so. Finita. Che è finita? Purtroppo. È finita. Purtroppo. Mamma mia. È tremenda. Come? Ma pensavo che ci fosse stato un ritorno di fiamma, invece no. Ah, questo ne dicono tante. Parla con lei. Parlo con lei. Mi dispiace davvero. Ha lasciato chi? Chi ha lasciato chi? Ma veramente, Parenzo, ma tu veramente vuoi chiedere scusa tutti i giorni, Però scusa, rispondi. Io guardo dal buco della serratura, quello guarda dal buco della serratura, la grande trasparenza qui, la zanzara. Chi ha lasciato chi? Lei mi sembra da lasciare. No, l'hai visto com'è? T'ha lasciato lei? Le donne sono così. T'ha lasciato lei, una cosa. Ma soffri? Ma come si permette? Soffri o no? Ma dai, ti ho detto, non ti sto dicendo nulla. Io di queste cose qui non parlo, quindi non ti dico né l'uno né l'altro. Non ti dico niente. Senti, se la RAI non ti reintegra, chiedi danni? Se ma la RAI chiedi non... in ogni caso. Ah, in ogni caso, quanti soldi chiedi? Ma scusami, un attimo, adesso ti faccio... No, ma io sono d'accordo con te. Dico una cosa molto divertente, perché ti fa capire come la mentalità è assurda. Sì, allora, quando mi hanno posto il problema lì, delle carte di credito, io ho avuto un atteggiamento che c'è normalmente le persone che dicono ma io sono hai restituito i soldi e l'ho restituiti con l'idea che la gente che mi segue il gesto, nel senso, ho detto, visto che non voglio che un pirla si alzi e mi dice hai usato i soldi pubblici per andare a... ho detto io li do e poi con riserva, perché visto che mi avete posto il problema 18 mesi dopo, non credo che avete ragione. Adesso chiaramente io quelli là, come prima cosa, però quel problema lì o no? Mi sembra abbastanza quale chiaro, dell'risarcimento dei soldi? Ma certo, cioè nel senso io... Quanti soldi chiedi dei danni? Dei danni che hai ricevuto dalla... Non te lo so dire, guarda, che questa è una cosa che riguarda... Lascia... un milione di euro, legali. Che ne so, un milione di euro. Guarda, io non sono stato mai appresso ai soldi, perché altrimenti sono... Ma lo so, è così, per avere un'idea. Non lo so, ma non lo so. Ma tutti stanno appresso ai soldi poi, Augusto, tutti stanno appresso ai soldi. È normale che sia faccia così, non siamo ipocriti su no, questo. No, io ti dico, guarda, francamente, se mi conoscessi probabilmente ti accorgeresti. No, ma anch'io, non si può dire no, siamo estranei ai soldi, i soldi fanno parte della vita. Ho capito, ma non è che ho fatto questo mestiere per questo, perché altrimenti avrei scelto un altro mestiere, o sei meglio di me, dai. Sarei messo a fare l'avvocato, il notaio, però il direttore del TG1, uno nella carriera va avanti anche guadagnando di più, non è una cosa strana. Hai ragione, ma quando noi cominciamo questo mestiere, per questo tu non hai il pallino, non è che pensi, quanti ce ne sono di direttori al TG1? Uno. Ma prima io vedo che devo dire che tutti i nostri colleghi, cioè poi alla fine prendono anche molto meno e fanno pure una vita che è abbastanza pesante e faticosa. Per cui quando uno, non è che tu parti con l'idea che poi arrivi, tieni conto, non ho mai voluto fare la... Comunque ti senti di dover chiedere un risarcimento alla RAI per quello che ti è successo? Dopo quello... Beh, devo dirti, cioè io ho fatto la raccolta degli articoli che ho avuto contro. Sì. Beh, credo che saranno circa 2500 pagine. In cui questi, sono 2500 pagine, se vuoi lo potremmo chiamare il libro dell'infamia. Ho detto, questo qui chiaramente non è che me lo sono provocato da solo, no? Cioè la RAI aveva dato ragione in prima istanza a tutti quelli che ti hanno massacrato. Tu no, questo... se non hai capito, la RAI quando è venuta lì al processo ha chiesto se io fossi stato condannato dei danni morali per 125.000 euro. Tu quanti ne richiedi allora? Il doppio? Ma io sono una persona, ma tu ti rendi conto però, quindi se io chiedo un risarcimento sarei più nel giusto. Ma loro si sono costituiti i parti civili, che hanno fatto? Certo, si sono costituiti parte civile, dopo che se tu adesso poi se andiamo lì dovremmo fare una puntata per capire tutto l'atteggiamento che hanno avuto. Poi alla fine, malgrado sono stati ostili nei due confronti. Beh, alla fine se uno ti chiede 125.000 euro di danni, cioè secondo te com'è stato? No, certo. Va bene, Parenzo, salutiamo Augusto. E chiedi scusa. Allora, capito? Attento alle scuse. Chiedi scusa per la storia delle carte di credito. Scusa per la carta sui suoi editoriali. Ma non devi chiedere scusa. Si ironizza perché siamo tutti portati a ironizzare sulle disgrazie delle persone. E ognuno. Noi non approfondiamo molto. Poi facciamo una trasmissione sugli editoriali e li leggiamo insieme. Poi lo vedi. Ma ciao, scusa, ma ti hanno candidato poi col PDL, non con Bobo. Che c'entra? Ma che cosa significa questo? Scusami. Cioè, nel senso, io che ti posso dire sulle posizioni, ad esempio, del PDL per quanto riguarda le intercettazioni. Sarà d'accordo sul PDL. Ma io non sono d'accordo. Sono d'accordo con Travaglio, che ad esempio quelle intercettazioni dovrebbero uscire, che la posizione della Consulta diciamo ha dato ancora maggiori poteri al capo dello Stato. Io ho sempre pensato con la mia testa e continuo a pensare. Cioè, su questo, scusa, spiegami un attimo, tu sulla questione delle intercettazioni pensi che dovrebbero uscire le intercettazioni? Di Mancino, Napolitano Mancino? Sì, assolutamente sì. Io penso che dovrebbero uscire, e soprattutto che il giudizio dato dalla Consulta, quello di dire che non dovrebbero uscire, è una cosa, perché chiaramente amplifica ancora di più i diritti e i poteri del hanno capo voluto hanno voluto coprire Napolitano. Non ho detto che hanno coperto, ti ho detto amplificato di troppo, secondo me di troppo, ancora una volta i poteri del capo. Adesso ti faccio passare. Allora io ti dico una cosa, è possibile che in una Repubblica che purtroppo, ripeto, purtroppo è fondata sulle intercettazioni, c'è un'unica intercettazione che non esce? Parenzo, ti dico anche che Minzolini, adesso te lo faccio diventare simpatico, è a favore delle unioni gay e dei matrimoni gay. Ma non c'è dubbio. No, matrimoni gay no. Sì, unioni. Ho detto stessi diritti, ma non matrimoni gay. Vabbè, chiamiamolo come chiamiamolo. Vabbè, veramente tu per dare una notizia sei... Ma l'hai già detto questo? Tu lo facevi, no, facevi peggio di me. No, vabbè, quello sì. Io però quello che ti dico, per essere chiari, ho detto stessi diritti, ma non matrimoni. L'ho detto anche a adozione? No, neanche adozione, immagino che una famiglia poi è sempre un uomo e una donna. Vabbè. Una famiglia, cioè per tirare su un bambino. Ma figura, è un libertino pazzesco. Adesso dice queste cose perché sennò perché PDL, eccetera, eccetera. Lo penso davvero, io poi tieni conto. Ma figuriamoci se non pensi che uno possa adottare, che una famiglia di gay possa adottare un bambino. Augusto, lo so benissimo che lo pensi, guarda. No, cioè questo ti sbagli, perché io su queste cose sono attento, sono molto meno, sono, come dici tu, sarò libertino per alcuni versi, ma per altri no. Vabbè, grazie, vabbè, ciao, a presto. Ciao. Che figata. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Dario da Milano, 800 24 00 24. Caro Parenzo. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Insomma, buonasera a tutte e due. Vai, allora, vai. Io rimango un attimino basito quando fate queste interviste, perché c'è della genialità, no? Oppure sono di basso livello i vostri interlocutori. Mm. Nel senso in che senso? Nel senso che tutto sommato o non si rendono conto, loro pensano di farsi della pubblicità a loro favore quando vengono fatte queste interviste ad hoc, fatte bene, ma poi in realtà ricevono l'effetto contrario. Per cui io continuo a non capire come questi non capiscano che tutto sommato... spinti dalle vostre domande intelligenti, poi tutto sommato hanno l'effetto contrario di quello che pensano avere. Comunque, quello che volevo dire era questo. Sì. Allora, su Giannino Cruciani, allora, io non voterò Giannino, però sulla classe politica mediocre, così come adesso, quando in realtà non si tirano fuori né cifre né niente, tutto sommato, secondo me, un Giannino che comunque ha delle stime finanziarie su cosa vorrebbe fare e quanto tagliare, è comunque una valenza, un valore aggiunto in più rispetto alla mediocrità di questa classe politica. Allora, sul master ha fatto una grossa cagata, posso dirlo. Ma io solo questo dico, solo questo dico. Sì, sì, ma infatti io non la sto criticando su questo. Cioè, io prima Parenzo mi ha fatto una domanda. Tu hai ancora intenzione di puntini, perché... Perché? Io, la mia risposta è sì, per cui vede che l'atteggiamento è diverso. Dopodiché i fatti sono fatti, quello che uno ha detto è quello che uno ha detto, quello che uno manda in giro, cioè i CV, i curriculum... è quello che manda in giro e c'è scritto chiaramente quello che c'è scritto, cioè che ha fatto un corso, ha preso un master, eccetera, eccetera. Di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Di un errore? Vedete, la sua risposta è o no imbarazzante? Andatevela a leggere. È imbarazzante, basta. Scusa, uno dovrebbe chiedere scusa, sì, è vero. È una cosa imbarazzante. Basta, sono appunto. D'accordo con te, ma il discorso alla fin fine è che molta gente non ha la sensibilità per fare questa distinzione. Per cui pensa che tutto sommato... Ma io non devo proteggere nessuno, ma non devo... negativo perché ha tirato fuori... Ma io non devo proteggere, nessuno, allora, ha capito? Tu hai la sensibilità per poter, tuo Parenzo, insomma, chi come me ha la sensibilità di poter fare questa distinzione, per cui contano i programmi. E un conto è rivalutare il fatto... Guardi, però, scusi un attimo, contano i programmi, questa è una cosa che dice lei. Cioè, per alcuni contano i programmi, per alcuni contano altre cose. Aspetti un attimo. Che squilla estero. Aspetta, stai tranquillo. Squilla estero, dico solo. Vabbè, fatti gli affari tuoi. Sai, io ho fatto una constatazione. The mailbox belonging to 7732. Vabbè, 800240024. Mario da Parma. Grazie, Dario. Mario. Mario. Buonasera. Sì, sì, ma tolga l'auricolare, il viva voce, quello che è. Stai calmo, Cruciano, stai calmo. Sì, buonasera, sì, Parenzi. Sono calmissimo. No, innanzitutto è Cruciano Parenzi. Che fa, come Fede, che storpia i nomi? Storpia i nomi? Sì. Ho detto Cruciano e Parenzi. Vabbè, d'accordo. Mario, vuole fare lo spiritoso, su, non ci riesce, dai, avanti. No, volevo chiedere questo, lo spiritoso, ma che cazzo dici? Ascolta, no, volevo vuole fare questo. Lo spiritoso, Cruciano e Parenzi, no, io sono Cruciani e Parenzi. Sì, vabbè, ma vuole fare il fenomeno, su, fenomeno, avanti. Comunque va bene, come si chiama lei? Mario, signor Mario da Parma. Posso dire qualcosa? Posso sì, vuole qualcosa? Fare il fenomeno, su, faccia il fenomeno, su. Fenomeno. Faccia il fenomeno. Faccio il fenomeno allora, sì. Dai. No, volevo chiederti questo, Cruciano. No, chiederle, Mario da Parma, chiederle, non da Napoli, Mario da Parma, chiederle. Mario da Parma, io sono a Parma, però non sono. Ah, è napoletano, va benissimo, va bene lo stesso, è uguale. No, non sono napoletano, c'è anche la Campania, ci sono 5 province in Campania. Sì, Benevento, Avellino, le so le province, non si preoccupi, Caserta, sono preparato. Caserta, Salerno. Le conosco bene. Bravo, Cruciano. No, volevo dire questo, ma avete parlato con Minzolini, no? Sì. E perché non gli avete chiesto delle telefonate con Berlusconi quando concordavi i palinsesti? Ma quali telefonate con Berlusconi in cui concordi i palinsesti? Non risultano agli atti. Non sapete un cazzo allora voi. Non sapete un cazzo. Mi dispiace, invece sa tutto lei. Invece sa no, tutto, tutto lei. Non lo so, sono alcune cose, per questo l'ho voluta chiamare, per informarla. Sì. Voi fate, no, la vostra non è in radio, voi fate delle cacate. Sì, certo. No, voglio, guardi, ogni voi. Giorno, almeno un paio e di volte. Purtroppo in questo paese sì. Le cacate hanno successo. Sì. E voi avete successo nelle cacate. Può darsi che sia così. Io due volte... una buona serata, Cruciano. Io vado due volte al giorno. E saluti pure Parenzi. Mario, quante volte va lei al giorno? Io due, lei? Io vado spesso per fortuna. Va spesso. Vado di corpo che ha la signora Pun. Lo so, ma quello, se, ma quello, guardi, me ne sono accorto che lei va spesso di corpo, guardi, me ne sono accorto. Sì, e fra poco ci vado di nuovo e ecco. Mi penso pure, tutte e due. Va, bravo, bravo, bravo. Sia Cruciale che Apparenti. Bravo, infatti noi facciamo andare di corpo anche. Sì, abbiamo ma anche va cagare, queste, Dio buono, queste, Dio buono, queste, cagare, queste, queste capacità e non mette in mezzo, non mette in mezzo persone che non devono essere messe in mezzo. In mezzo dove? No, no, no, non mette in mezzo, lei ha capito tutto. Ma che ho capito, Cruciani? Ma cosa ho capito? Sei tu che non hai capito niente, sì, Cruciani. Stavi facendo l'imitazione. Sì. Il tuo successo è basato sulle cagate che fai. Parenzo, rispondi, un paese, rispondi tu. È un paese di merda, è solo in un sì. Paese di merda così può avere una successo una trasmissione allora, come la tua. Purtroppo, sì. Cruciani, che so che ti chiami Cruciani. L'orario, l'hanno, l'orario è quello là. Gli ascoltatori, che questo qui è la nuova rubrica che ha inventato Cruciani, che si chiama L'angolo del cretino, che è stato appena inaugurato. Quindi nuova rubrica, L'angolo del cretino. Prego Mario. Chiama dica. Mario da Parma che ha fatto finta di parlare napoletano facendolo esatto. Spiritoso. L'angolo adesso, del cretino. Adesso invece fa se stesso e è ancora peggio di quell'altro però facendo se stesso. Cioè non è l'angolo che... del cretino si è, chiama. È ancora peggio dell'altro. Sì, va bene, va bene. Cruciani e Parenzi la saluto, vi saluto e vi auguro una buona serata. Sì. Continuate così con le vostre cagate che avrete ancora più successo. Vada, vada, non si preoccupi, voleva fregare noi questo qua. Ma è un genio! La zanzarina tormenta la mia noce. Marco da Cuneo, buonasera, 800 24 00 24. Marco, eccoci buonasera, qui. Buonasera, buonasera Parenzo. Le sorprese buonasera non sono terminate qui, ancora c'è tempo, restate con noi, ancora c'è tempo. Allora, vada Marco. Ma io volevo capire semplicemente riguardo a quello che ha detto Minzolini, sì. Cioè lui è stato candidato per il PDL in Liguria, tra i primi, quindi probabilmente passerà di sicuro, ma nel momento in cui i suoi processi si sono risolti per lui giustamente positivamente, dice vabbè non mi interessa più la politica, grazie, arrivederci, è stato un piacere. Non ho capito, dire, scusi. È facile così, no? Non ho capito. Tanto, voglio dire, Berlusconi l'ha messo, Berlusconi, il PDL l'ha messo tra i primi ed era sicuro di passare, se per caso avesse avuto dei problemi entrava in politica, se no, grazie, arrivederci. È un bello spirito di servizio riguardo alla politica. Questo che mi pare che non sia emerso nella discussione, la politica come comodino. Ma la politica come comodino? Sì, insomma. Comodino di quelli che giustamente possono permetterselo perché sono a livelli un pochettino più in contatto con i vertici del PDL, quindi vabbè, va, è andata bene così, non ho c'ho bisogno, voglio fare questo mestiere e torno alla direzione del TG1. Ma lo sa che io non ho capito nulla di quello che ha detto? No, neanche io. Non ho capito niente. Che cosa c'è da rimproverare a Minzolini? Ma è giusto anche rimproverare qualcosa, ma almeno sia chiaro. No, scusi, forse non ma deve essere chiaro. Che cos'è che rimprovera a Minzolini? Non ho capito. Rimprovera il fatto di essersi messo in politica, di essersi candidato, sì? Perché cioè mentre c'era un suo processo in corso. Quando ma il processo in corso non c'entra nulla. È finito l'altro giorno, dunque non ci poteva essere. Cioè, appunto, però la candidatura è arrivata prima. E allora? E quindi, come dire, è entrato in politica sì. In attesa di sapere come sarebbero finiti i suoi processi, e allora? Il suo processo. Allora? E allora è comodo poi, una volta risolto positivamente, tornare a fare il proprio lavoro ancora, e dirlo ancora prima delle elezioni. Ma lo sai che io non ho capito nulla di quello che lei ha detto? È comodo, non è comodo, ha scelto prima mentre era sotto processo. Cosa c'entra con la vicenda Minzolini? Non c'entra nulla. Con la vicenda del TG1, dei suoi editoriali, del modo di condurre il TG1, delle accuse che gli sono state fatte, della soluzione, la candidatura, come dire, gli avranno chiesto, lui ha detto per fare un'esperienza diversa, avrà detto di sì, ma non, ma qual è? Non ho capito che c'entra tutto questo. Cosa c'entra tutto questo ragionamento che ha fatto lei prima, dopo e quello e allora poi non ho capito che vuol dire? Cioè, per me vuol dire che è stato candidato tra i primi in lista al PDL, quindi era praticamente sicuro di è sicuro, ancora non ci sono state le elezioni, è sicuro di entrare in Senato, allora? È molto sicuro di entrare in Senato, ma una volta che è stato reintegrato come direttore del TG1, dice vabbè, io il Senato non voglio più andarci, lascio. Sì, più o meno ha detto questo, più o meno, poi bisogna vedere, un po' contraddittorio, nel senso che se uno si candida è per entrare in Senato, non in attesa Dopodiché succede. Ma altre persone, come lei sa, sono stati parlamentari europei prima di avere prima di essere giusto, reintegrati, mi pare un atteggiamento sbagliato rispetto alla politica. Ma si può darsi la politica di passaggio, come ha detto prima Alberto dalla provincia di Modena. Sì, buonasera Cucciano. Buonasera. Dica. Niente, io ho sentito l'intervista di Minzolini. A me sembra che il personaggio dovrebbe un po' vergognarsi a ripresentarsi ancora come candidato alla guida del TG1, anche se ha risolto i suoi problemi, a livello di carta di credito. Perché un personaggio, io ho sentito alcuni suoi editoriali, sono una difesa asperticata del signor Berlusconi. Che cosa strana. Ma no, ma voglio dire, allora voglio dire, stiamo ancora a rotolarci in mezzo all'ETAM, cioè voglio dire, vogliamo un paese nuovo, vogliamo mettere al TG1 una persona che comunque ha sempre fatto gli interessi del PDL, per il quale adesso si sta anche candidando. E poi l'ascoltatore di prima non aveva tutti i torti, perché uno che fa politica si candida in Parlamento dovrebbe avere una convinzione forte della politica, dovrebbe restare, dice proposte. Lei dovrebbe restare, non dovrebbe essere di passaggio, non dovrebbe dire forse potrei tornare a fare il TG1. Non è che come lui non aveva più un cazzo da fare, probabilmente ha detto adesso mi voto in politica, così se mi condannano trovo il ho capito consiglio. Perfettamente Alberto, grazie. Gennaro da Napoli, buonasera, veloce Gennaro. Gennaro, vada. Beh, guardi, io francamente sono sconcertato di questa tempesta in un bicchiere d'acqua. Anzi, ma su che cosa? La vicenda Giannino. Onestamente, qui discutiamo sulla esatta definizione di un titolo accademico. Se è un master, se è un corso o che sia. No. Attenzione, è diversa la cosa. Non è la vicenda della Sant'Anchè, dove c'è il corso oppure master, eccetera. Qui lui dice, perché lo dice lui, oggi, di non aver fatto nessun master. Esatto. Ha sentito l'audio di prima che ho mandato in onda? Sì, ho sentito perfettamente, ma il corso di che parliamo? Non c'è stato nessun corso. Non c'è stato nessun corso, nessuno. No, lui ha detto di a seguire un corso di inglese. Ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. Non ho conseguito nessun master, non ho fatto nessun corso di questo tipo. Allora, ho capito, ragazzi. Ho capito io, posso aver capito male. Lei ha capito male. Il problema è sulla definizione del corso, ma mi pare, insomma, in una situazione come questa, che veramente stiamo a spaccare il capello in 44, quando l'Italia se ne cade, crolla la produzione, le fabbriche chiudono, un disastro generalizzato e noi Gennaro, abbia pazienza, ma perché? Ma quando lo fanno gli altri paesi di andare a spulciare nei curricula? Gli altri paesi fanno, parlano e dicono, però poi alla fine se si va a vedere il famoso film che è uscito adesso, quella di Lincoln, si scopre come sono andate le cose anche dentro. Vabbè, maestro, lei mette in mezzo Lincoln addirittura, non c'è bisogno di giustificare, non bisogna scomodare Lincoln, resti ai fatti, non lasci perdere il programma, quello che è meglio, quello che è peggio. Allora, sovrastimati. Vogliamo riempire il vabbè, ora c'è un millantato credito rispetto a questa cosa, sì o no? Secondo me c'è un'imprecisione in un curriculum che viene utilizzato. Ma non è solo nel curriculum. Scusate, signore, però la vogliamo risentire questo audio di Repubblica.it? O no? Lo vogliamo risentire o no? Perché uno può dire, vabbè, mi sono sbagliato. Cioè, ho detto una cosa imprecisa. Mi viene naturale dire ho preso un master, che ne so. Cioè, però insomma, le parole mi sembrano inequivocabili. La nostra nasce da un'idea masticata insieme a un pugno di amici economisti italiani che insegnano in cattedre prestigiose all'estero. Luigi Zingales, che insegna a Chicago, dove ho preso il master. Michele Boldrin, che insegna alla Washington University in St. Louis. A domani 18:30.